Abbiamo visto la scorsa volta in questa esposizione, in questo discorso di Hasidut del Rebbe Yosef Yitzhak, abbiamo citato una tefillah che fece Daniel, il famoso Daniel del libro di Daniel, in cui Daniel dice: e ora ve'ata, e ora ascolta, o Signore, la preghiera del tuo servo e la sua supplica, e illumina il tuo volto, quindi voltati verso il tuo Mikdash, che è desolato, Hashamem, perché era nel momento della distruzione, cioè nel momento tra il primo tempio e il secondo tempio, quando erano esiliati gli ebrei in Babilonia. Questa era la tefilà di Daniel, era una parte della tefilà di Daniel, tra l'altro è un versetto che abbiamo citato stamattina nel Tachanun, che si dice giovedì e lunedì, e abbiamo descritto un po' nella scorsa lezione, che ognuno può ascoltare la registrazione, abbiamo descritto come è stato portato in cattività Daniel e altri ragazzi aristocratici di Gerusalemme in Babilonia, e sono arrivati a grandi carriere all'interno della corte dell'imperatore Nebuchadnezzar, e poi dopo nella corte di Dario, il re della Persia, l'imperatore persiano. E abbiamo visto che Daniel nella sua abitazione aveva dedicato una stanza, che sia una stanza dove lui potesse fare la tefilà, anche se era contro la regola, era contro la legge dell'imperatore Dario, che si considerava, come molti imperatori, un dio, quindi a lui si pregava e a nessun altro, e quindi era vietato fare tefilà da Kadosh Baruch Hu, ma lui comunque faceva, e venne una volta beccato, e venne per questo buttato nella fossa dei leoni, famosa storia, e qui avviene il miracolo in cui non viene toccato dai leoni affamati, eccetera. Noi invece mettiamo a fuoco quel versetto con il quale abbiamo iniziato, e abbiamo chiesto la scorsa volta: e ora, Signore, ascolta la mia preghiera. Perché ora? Perché non sempre? Cosa c'è di particolare in quel momento, e qual è quel momento particolare di cui Daniel dice: e ora ascolta la mia supplica, la mia preghiera? In altre parole, noi crediamo che HaKadosh Baruch Hu ci sta vicino in qualsiasi momento in cui ci rivolgiamo a lui. Quindi perché sembra invece che ci sia un momento specifico? Allora, vediamo a pagina 109. Come prosegue il discorso? Gam yesh leavin, ci sarebbe ulteriormente da capire, quindi un'ulteriore perplessità. Mahi kavanata bakasha, qual è l'intento della richiesta appunto di Daniel in questa tefilà? Veha'er panecha al mikdashcha shamem, di illuminare il suo volto del Signore verso il santuario che è desolato in quel momento, e qual è il senso, umahu atam, e la motivazione delle ultime due parole dove dice leman Hashem. Il versetto dice ve'ata elokeinu shema el tefilat avdecha vel tachanunav, ascolta le suppliche e la preghiera del tuo servo, illumina, come abbiamo detto, il tuo volto verso il Mikdash che è desolato, e conclude con le due parole leman Hashem, per Dio. Cosa vuol dire per Dio? È come se dicesse fallo per te. Quindi questo va approfondito. E la biur ha inyan bazehu. E quindi la spiegazione parte dalla seguente considerazione. Ha gemara omeret. Il Talmud nel trattato di Berachot dicono i Chachamim. Af Daniel, riguardo proprio questa storia di Daniel e il miracolo che avviene con lui, dicono i maestri che anche Daniel, lì si parla di altri che sono stati, che è stata esaudita la loro richiesta, e poi si arriva a dire di Daniel, anche Daniel, lo ne'ena ela bizchut Avraham, la risposta, l'esaudimento, si dice esaudimento? Sì. L'esaudimento della sua richiesta era non per merito suo, della sua grandezza di Daniel, bensì bizchut Avraham. era per il merito del nostro patriarca Abraham. Da dove tira fuori la Gemara questa idea? Lo appoggia al versetto che noi abbiamo già visto. Sheneemar, come è detto, Ve'ata shema Elokeinu el tefilat avdecha vel tachanuna, ve tu, Signore, ascolta ora la tefilà del tuo servo e la sua supplica, ve'aer panecha al mikdashcha shamem leman Hashem, per Dio rivolgiti verso il mikdash. E la Gemara pone la domanda, per arrivare alla conclusione che abbiamo detto, la Gemara pone la seguente domanda. Shoelet haGemara, la Gemara si chiede, lema'ancha mi ba'e, se lui vuole dire fallo per te, avrebbe potuto abbreviare, come sempre i versetti prendono quasi sempre la versione più breve nell'usare i termini, avrebbe potuto dire lema'ancha, per te, sta parlando con HaKadosh Baruch Hu, può dire per te, perché deve dire nella terza persona lema'an Hashem, per Dio, stai parlando con Dio, allora digli per te. Leman atzmecha, umadua neemar leman Hashem, perché è scritto leman adokai, per il Signore, che sembra dire per Dio in terza persona, mentre lui parla con lui in maniera diretta, in tutto il resto del versetto è nella prima persona, io sono il tuo servo, rispondi alla mia preghiera, no? Sembra che sta dicendo una parte nella prima persona. In altri passaggi, anche nei salmi, ogni tanto c'è questa sì? sensazione che passa da un tempo all'altro, da un... lui, però poi fa... sembra che si rivolge a un pubblico invece che okay. Mentre parla con noi. Sì. Allora la Gemara lì dice così, una cosa molto interessante. Ela hakavanahi, l'intento di Daniel qui è leman Avraham, per il merito di Avraham, il quale shekeracha Adon. Avraham ha chiamato il Signore Adon, padrone di tutta l'esistenza, di tutta la creazione. Visto che Abraham che ha usato questo termine Adon, da cui viene il nome Adokai, ok? Allora vuole ricordare, dicendolo in questa maniera, vuole ricordare il merito di Abraham. Come quando ti serve qualcosa e ti rivolgi, ti fai raccomandare, allora lui si sta raccomandando per merito del nostro patriarca Abraham. E dice... E Abraham era il primo, Abraham aya rishon shekara l'Hashem itbarach b'shem Adokai. Abraham era il primo che si è rivolto ad HaKadosh Baruch Hu con questo nome. Quindi lui usa specificatamente questo nome e usa anche la terza persona e non dice leman ha per te e non dice leman un altro nome, Elohim o Hashem, dice Adokai perché vuole ricordare, vuole tirare fuori, far ricordare ad HaKadosh Baruch Hu per così dire, là è il merito di Avraham Avinu. Ok? Ecco perché dice la Gemara nel trattato di Berachot, Daniel si è espresso in questa maniera, perché in effetti è stato poi salvato per merito non suo, ma merito di Avraham, e questo è alluso nel modo in cui si è espresso usando il nome di Hashem, che il primo il quale lo ha usato era il patriarca Avraham Avinu. Ma, questo è molto bello, ma non spiega per quale motivo Daniel aveva bisogno di essere salvato per merito di Avraham Avinu? Non era forse Daniel, come abbiamo visto già prima, un grande tzaddik? Non era forse lui stesso già sufficientemente magari meritevole per essere salvato o perché la sua tefilà sia esaudita? E questo è il punto su cui vorremmo appunto un attimo soffermarci. E qui lo esprime così. Ach yesh lehavin, ma c'è comunque da capire. Et leshon haGemara, ciò che dice la Gemara, che Af Daniel, anche Daniel, lo ne na ela bizchut Avraham, non è stata esaudita la sua richiesta se non che per il merito di Avraham. Perché? Mi lashon ze, da questi termini usati dalla Gemara, mashma verrebbe fuori, sembrerebbe, se Daniel, che egli stesso, la persona di Daniel, Haya achen ra'ui, era in realtà sì meritevole, she Hashem itbarach ya'ane levakashato bizchut asmo, che HaKadosh Baruch Hu possa esaudire la sua richiesta per il suo proprio e stesso merito. Ma non è stato così. Aval hu lo na'ana, lo ne'enabi, lo na'ana, lo bizchut asmo, non è stato esaudito per suo proprio merito, e la rak bizchut Avraham, bensì per merito di Avraham. Cioè, se la Gemara dicesse Daniel non era meritevole. Meno male che c'era il merito di Abramo per... La Gemara non dice questo. La Gemara dice, non dice esplicitamente, ma è implicito nelle parole della Gemara, e ognuno lo pensa, e Daniel si è stato esaudito per il suo grande merito. Invece la Gemara dice no, ce l'ha il merito, ce l'avrebbe, però non è per questo che è stato esaudito. È stata esaudita la sua tefilà per il merito di Abraham. Perché? E poi è quasi come, lui spiega qui Rebbe Yosef Yitzchak, è quasi come che la Gemara stessa esprima questa meraviglia. Le Shona Gemara o Kiplia, il linguaggio usato dalla Gemara in questo contesto, è come quasi una meraviglia. Perché? Come se la Gemara stessa dicesse, Shagmarak momit palet, è come se la Gemara si meravigliasse. Ma dua hayal Daniel Isaac lishut, lishutò shel Abraham. Ma dua, perché Abraham e Daniel aveva la necessità di appoggiarsi al merito di Abraham? È come dire, ma per quale motivo? E lui è abbastanza meritevole. Bellevo. L'umiltà. Oh, allora, qui arriviamo subito all'altra faccia della moneta. Beh, abbiamo sempre visto che noi invochiamo, come dicevo anche prima, il merito dei nostri avi. E non solo noi, gente comune, ma anche grandi e importanti, Chachamim e Tzadikim, hanno da sempre invocato il merito degli avi quando era necessario chiedere qualcosa da Kadosh Baruch Hu. Il primo esempio, e l'esempio classico, è Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu non aveva forse sufficienti meriti propri? Certo che ce li aveva, però vediamo che invece lui dice Zechor la avadecha le Abraham le Yitzchak le Yaakov. Allora, ora vediamo l'altra faccia della moneta. L'omuvan, non è chiaro. Mahi apliash la Gemara. Perché la cosa non sembra essere comprensibile per la Gemara? Harei mazzinu, noi in realtà troviamo, quindi vediamo nei testi, Shegam Moshe Rabbeinu Alav Shalom, che anche il grande, più grande profeta di tutti i tempi, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, bitfilato avur klal Israel, quando si mise a pregare per avere un perdono per Am Israel, Hizkir Gam Zechut Avot, ricordò anche il merito degli avi, Moshe Katuv, come detto nella Torah, nel libro di Devarim, nella parasha di Ekev, Zechor la avadecha, ricorda per il merito dei figli i tuoi servi, le Abraham, le Yitzchak, le Yaakov. Ma uapele, qual è la meraviglia se Hashem Itbarech anna le Daniel biglal zchuto shel Abraham? Non è una grande meraviglia il fatto che Akadosh Baruch Hu avesse risposto a Daniel per il merito di Abraham? È una cosa normale. È vero, tu puoi essere meritevole, ma è chiaro che non è che vari e dici io sono meritevole, per favore dammi quello che mi serve o la salvezza. No, è chiaro che ti metti da parte e dici però in merito dei miei avi, dei tuoi grandi servi. Questo è un aspetto, ma ancora non arriviamo subito alla risposta. Gam tzarich leavin, aggiungiamo un altro aspetto che va capito. Pagina 111. Mileshona gemara. Dal linguaggio usato appunto dalla Gemara, mashma, è implicito, she lema'an Hashem hu bitui na'ale yoter me'asher lema'ancha. Dal fatto che Daniel dice fallo per Dio, lema'an Hashem, e con questo ricorda Abraham, che era il primo che ha usato questo nome di Hashem, sembra che sia un modo di esprimersi più elevato, un livello ulteriore rispetto a semplicemente dire per te, lema'ancha. Sì, ma Yakatuv le mancha, perché se fosse scritto solo per te, non avremmo potuto capire il fatto del merito di Abraham. Il merito di Abraham, cioè quindi un'ulteriore cosa, si allude nel dire le man Hashem, ma se avesse detto solo le mancha, non l'avrei capito questo. Certo. Ok? Perché sì, ma Yakatuv le mancha, se fosse scritto solo per te, allora lo hayu yodim et hakavana amitit. Non avremmo saputo noi quale fosse la sua reale intenzione, che era quella di evocare appunto il merito di Abraham. E qui facciamo di nuovo l'altra faccia della moneta. Varei le mancha kavanoto amshacha atzmit. Qui c'è un termine cabalistico che dice quando lui avesse detto per te, questo te non è un nome, ma cosa indica questo te, questo tu? indica qualcosa di essenziale che va al di là del nome, che ancora trascende il nome. Il nome rappresenta una determinata manifestazione definita di HaKadosh Baruch Hu, come la sua presenza si esprime in una certa maniera, lo chiamiamo con un nome. Si esprime in un'altra maniera, lo chiamiamo con un altro nome. Ma il fatto che questa sia una maniera e questa sia un'altra maniera significa è definita, è più limitata quella manifestazione. Ma se io dico te, non mi limito a un aspetto piuttosto che a un altro aspetto della persona, mi rivolgo in maniera più ampia all'essenza della persona. Qual è la parola? In maniera trascendente, atzmit essenziale. Che she'echad omer la'sheni atta, quando uno dice all'altro tu, arei kavanatohi, qual è l'intenzione? L'immeutosh la'sheni, l'essenza dell'altra persona. Tu vieni con me, non la tua barba viene con me, non la tua mano viene con me, tu vieni con me. È tutta la persona. Non un aspetto specifico. E non un aspetto specifico. Tu prova a smitti. Tu, l'essenza. A ta. Atzmit, essenza. Quindi se lui avesse detto le mancha per te, forse avrebbe indicato un legame a un aspetto ancora più trascendente ed elevato di HaKadosh Baruch Hu, di piuttosto che limitarlo al Leman Hashem, quel nome specifico là. E come ho raccontato una volta la storia dell'Alter Rebbe, l'autore del Tanya, il suo nipote, che poi era il terzo Rebbe, Rebbe Menachem Mendel, il terzo Rebbe di Lubavitch, Tzemach Tzedek, che era orfano della madre, e lui, l'Alter Rebbe, dall'età di 3 anni l'ha cresciuto lui, viveva proprio con lui, e lo cresceva e lo insegnava e tutto quanto. Allora un giorno giocava, il bambino, e come spesso un bambino gioca con un papà o con un nonno, dice, dov'è papà? Dov'è qui? Dov'è? Allora il nonno dice, dov'è nonno? E lui indica così, verso, diciamo, la barba. Allora il nonno dice, no, questa è la barba di nonno, ma nonno dov'è? E allora indica un'altra parte, no, questo è il braccio di nonno, nonno dov'è? E così va avanti. Poi il bambino è andato a giocare da solo. A un certo momento il bambino si mette dietro la porta e fa finta di essersi preso il dito nel cardine, no? Nella fessura della porta che si apriva o si chiudeva, e fa un grido. Ah! Allora il nonno dice, cosa c'è? E il bambino dice, ecco, questo è nonno. Tutto. Questo è, quando il nonno si rivolge a me, questo è nonno. Ecco nonno, eccolo qua. Cioè il bambino aveva fatto questa cosa per... aveva capito la risposta. E l'aveva insegnato, tra virgolette, al nonno, no? Per dire, ha detto sì. Allora questo significa l'essenza della persona, non è un aspetto, una parte, un'idea, è tutta la persona, è tutta l'entità. Allora se io dico le mancha, mi rivolgo ad HaKadosh Baruch Hu e dico a te, sto trascendendo le manifestazioni più definite. E allora, in teoria, forse Daniele avrebbe sì dovuto dire le mancha, l'altra faccia della moneta, no? Noi abbiamo detto, lui non ha detto le mancha per te, perché si è rivolto volendo evocare il merito di Avraham Avinu. Quindi ha usato il nome che ha usato Avraham Avinu per primo. Però forse avrebbe dovuto andare oltre ancora e parlare direttamente, in maniera trascendente, diretta ad Hashem. Ok, è difficile. Vabbè. Adesso faremo piano. Il concetto, dici perché Adonai? No. Sì, dovrebbe parlare direttamente, vai diretto. Invece una cosa specifica. Perché andare in una strada specifica? A questo punto sì. Prendi il passepartout, certo. No? Allora, e questo lo applichiamo subito anche a quando noi facciamo una berakha, qualsiasi berakha. Nel momento in cui diciamo Baruch Atta è un rivolgersi indirettamente all'essenza di HaKadosh Baruch. Ken hugam pirusha milim, questo è anche il senso dei termini Baruch Ata. She'anu omrim bebrachot shemonesre, che per esempio noi diciamo in ogni bracha, ma lo vediamo ancora di più nelle brachot dell'Amida, perché l'Amida è proprio il momento in cui noi siamo fermi come uno schiavo davanti al re, e nell'Amida è considerato che lì, in quel momento, siamo al cospetto di HaKadosh Baruch Hu. E cos'è il contenuto dell'Amida? La richiesta delle nostre esigenze, che è la stessa cosa che stava facendo Daniel. Tefilà. Però nella metà noi ci rivolgiamo direttamente. Esatto, Baruch Atah, quello che stiamo dicendo. Cosa che non ho capito. Esatto. Quindi stiamo dicendo, diciamo, perché non l'ha detto, perché non l'ha fatto Daniel? Questo è quello che stiamo dicendo, esatto. Però, nell'Amidà ci rivolgiamo direttamente. È vero, però a prescindere dai significati della bracha, uh-huh. Però noi diciamo Baruch Ata e poi diciamo Hashem. Oh, un attimo, bravo. Vero. Ok. Però prima diciamo Baruch Ata. Mettiamo un attimo a fuoco, sì, questo, vero. Poi procediamo. La prima cosa è Baruch Ata, She Hashem Yitbarach Be'atzmo, che egli stesso nella sua essenza, nella sua manifestazione più profonda, più elevata, Yemale et bakashotenu, possa esaudire le nostre richieste. E cioè, perché diciamo Ata? Perché Shehaham Shachati è, perché ciò che deriva da lui, che possa derivare Me'atzmut Orenzof, dall'essenza della luce infinita del divino. E questo è anche il senso, Vesogama Kavana le Mancha. Questo sarebbe stato il senso se Daniele avesse detto le Mancha per te, lo stesso come a ta. Avuratzmecha, per te stesso. Cosa significa per te stesso? È per il bene di Hashem. Ora veniamo in un altro aspetto. È per il bene, come se dicesse, come dicevo all'inizio, no? È come se fosse il bene tuo, Hashem, allora esaudisci la mia richiesta. Ok? Ma anche se questo fosse significato, sarebbe ancora più diretto se dicesse le mancha. Come subito spieghiamo. Le man Hashem, hu le man Avram Avinu. Abbiamo spiegato prima che quando dice le man Hashem è un'allusione per dire per merito di Avraham. Shaliedei avodato agedolah. Avraham, che con il suo servizio così importante di Hashem, attraverso Be'achnasat Orchim, in particolare che si è espresso nel accogliere gli ospiti, mitoch mesirut nefesh, anche sacrificandosi per farlo, garam, causò, fece sì Avraham, sheshmo shel Hashem itbarach, yiyem mukar, che il nome del Signore venga e diventi riconosciuto, gam ben ha'aravim apshutim biyoter, anche nella bocca e nella mente dei più semplici arabi e beduini della zona dove lui si trovava. Vetarach levaer lahem, e si impiegò, si interessò a spiegare loro, etignana bore baruchu, il concetto e l'idea che esiste un creatore che ha creato tutta l'esistenza. Echuman higet haolam, e come questo creatore continua a guidare il mondo. Ubase, e facendo quest'opera, cosa fece Abraham? Pirsem, fece pubblicizzare, fece riconoscere e conoscere et malchuto shel Hashem itbarech ba'olam, il regno del Signore sul mondo. E allora, le fi amur, secondo quanto abbiamo detto, yesh le'avin, va capito, va approfondito, ma hayitron, qual è il vantaggio, babitui, nell'esprimersi dicendo le man Hashem, che è una cosa specifica che ricorda il servizio di Avraham e il merito di Avraham, quindi shual yedei avodato shel Avraham, leumat le ma'ancha, mentre invece se avesse detto per te, shehu amshacha atzmit, che sarebbe andato ad indicare un legame diretto dall'essenza di HaKadosh Baruch Hu. Allora per quale motivo invece dice non le ma'ancha, ma le ma'an Hashem? E la risposta si approfondirà, ecco, nella prossima lezione. Così.